Allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa. Ciao a tutte e a tutti. E questa è la trasmissione contro il carcere che va in onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16, l'ora appunto di una delle tante conte che si effettuano nelle carceri italiane contro i detenuti e le detenute, e a cui mandiamo appunto un caro saluto e un caro abbraccio e soprattutto l'augurio di riconquistare al più presto la libertà. Questa oggi è l'ultima trasmissione prima della pausa estiva, una pausa che vedrà soltanto due settimane di chiusura, come tutti gli anni. Radio Onda Rossa chiude gli studi per due settimane a cavallo di Ferragosto, perché sono 15 giorni che necessari anche a fare piccoli lavori di manutenzione che ogni anno sono necessari fare e si possono fare soltanto se le trasmissioni sono interrotte. Andrà però in onda l'automatico, quindi con canzoni, musiche, trasmissioni registrate e così via, quindi vi terrà compagnia anche per coloro che non potranno muoversi per le vacanze, e chi non si potrà muovere per le vacanze sono in primo luogo coloro che sono costretti a vivere nelle carceri di questo paese. Che succede nelle carceri di questo paese? Continua sempre e la protesta in forme articolate, un po' a singhiozzo. Alcune carceri l'hanno già fatte, settimane di lotta, di protesta, altre ne stanno facendo in questi giorni, altre partiranno successivamente. Insomma, la situazione comunque c'è una grossa ondata di protesta che si svolge ancora in maniera abbastanza pacifica, come la volontà degli stessi detenuti e detenute. Tuttavia forme di la protesta in generale è come dicono anche i giornali, che sono contenti di questa ondata di proteste pacifiche, perché non mette in discussione il potere della cosiddetta società per bene nei confronti della società per male, sempre tra virgolette. Però appunto poi forme di violenza ve ne sono. Prima di tutto, la violenza principale qual è? È quella di costringere degli uomini o delle donne a vivere in queste condizioni, intanto privati della libertà, ma anche in condizioni disumane. Lo dicono perlomeno ormai gli osservatori di tutte le organizzazioni internazionali che visitano le carceri italiane. Vivere in 8 persone in 16 metri quadrati, cioè in una stanza di 4x4 con i letti a castello, è chiaramente qualcosa che rasenta la tortura, anzi per alcuni è vera e propria tortura. Ora non è che ci piace mettersi a disquisire dove comincia il confine della tortura e dove è soltanto maltrattamento o dove è soltanto condizioni di vita pessime. Sta di fatto che sono condizioni inaccettabili, mettiamo questo termine. Noi non le accettiamo e crediamo che per far cessare questo obbrobrio, ogni forma di lotta è del tutto legittima, qualunque forma decidano i detenuti di prendere. E poi vi sono altre forme di violenza che si accompagnano alla situazione di tensione, per esempio le risse tra detenuti che si accentuano in questo periodo, le notizie che abbiamo di qua e là ogni tanto si sanno. Perché? Perché quella condizione di segregazione dura, violenta, ancora più violenta, data dal caldo e dalle condizioni di sovraffollamento, fa scattare momenti di tensione. Basta una parola storta, basta qualcosa che non va in quella situazione in cui non va nulla, ed è possibile appunto che delle persone costrette in quelle condizioni di vita possano appunto venire alle mani. Ci sono stati anche momenti di tensioni nei confronti tra detenuti e guardie. Di questo se ne lamentano molto le guardie attraverso le loro organizzazioni sindacali, che dicono al governo, al ministro della giustizia, bisogna fare qualcosa perché la situazione di tensione si proietta anche contro di noi, dicono le guardie, ossia i secondini, ossia la polizia penitenziaria. Ed è vero, in parte, il primo nemico che il detenuto ha di fronte a sé è la guardia, il secondino, è quello che gli chiude la cella la sera. E queste tensioni ve ne sono tante, si sviluppano in continuazione, non vengono tenute in considerazione, no? Non vengono considerate nella protesta, però fanno parte della protesta, perché spesso è da lì che scaturisce, può scaturire una rivolta, da una tensione tra un gruppo di detenuti e un gruppo di guardie. Questo è il quadro. In tutto questo, ovviamente, il dramma che si aggiunge a questo è sono i suicidi o tentati suicidi. Uno è avvenuto proprio all'inizio di questo mese, il primo agosto, a Novate, nel carcere di Novate, che tra l'altro non è uno dei peggiori, però una donna ha tentato il suicidio, per fortuna è stata salvata in tempo mentre era appesa a una corda che si era organizzata. Poi alcune proteste avvengono anche fuori delle carceri, e questo è importante. Per esempio a Marassi, carcere di Marassi negli ultimi anni è un po' all'avanguardia delle proteste, perché ha intorno a sé una città abbastanza vivace ancora, nonostante tutte le batoste che ha preso Genova, è ancora una delle città più attente, più vive, a rispondere ai soprusi, alle aggressioni che avvengono dallo Stato, dal potere. Quindi c'è una forte solidarietà intorno ai detenuti del carcere di Marassi, e questo ha permesso che si svolgesse una fiaccolata intorno al carcere. Marassi è al centro della città, è un po' come Regina Coeli qui a Roma, non è uno di quei carceri esterni in cui non ti vede nessuno, per cui la fiaccolata è stata vista e partecipata e voluta dalla popolazione genovese. La manifestazione con fiaccolata era stata organizzata dall'Associazione Radicali di Genova, che in questo periodo stanno facendo, a seguito dello sciopero della fame di Pannella, però la partecipazione notevole è stata data dalle altre 1000 associazioni, e soprattutto dalla cittadinanza, giovani e altri giovani che ne hanno parlato nei quartieri, nelle piazze, dovunque si trovavano, nei centri sociali, ovunque hanno partecipato, hanno aderito, dando un significato con i loro striscioni, scritte, a questa fiaccolata intorno al carcere di Marassi. Una iniziativa molto interessante, che sarebbe da moltiplicare in ogni città, perché in ogni città, sapete, c'è un carcere, ogni città ha un carcere, grande o piccola che sia la città. Dentro ogni città, a fianco o al lato, comunque nella città c'è un carcere. E l'altra manifestazione di cui si ha notizia, probabilmente anche altre ce ne sono state, con partecipazione esterna, a Varese, dove allo sciopero della fame che continuano a fare i detenuti e le detenute all'interno del carcere, si è affiancato quello dei parenti e amici. A chiunque vuol partecipare allo sciopero della fame si reca sotto il carcere di Varese e lì mette il cartello: siamo in sciopero della fame. Lo fa per un periodo che ritiene di farlo, no? Una giornata, mezza giornata, due giorni, quello che ritiene di poter fare ciascuno, lo sciopero a staffetta, che permette di mantenere un presidio fuori dal carcere di persone che partecipano attivamente allo sciopero della fame, facendolo anch'esse. Ovviamente gli obiettivi di tutte queste proteste, l'obiettivo è uno solo: intanto affrontare il problema del sovraffollamento, cioè riportare la popolazione detenuta intorno ai 40.000 presenze, che è quello fisiologico, e poi da lì dovrebbe iniziare tutto un percorso di rivendicazioni da parte dei detenuti sulle proprie condizioni, rivendicazioni di cui ancora non si vede appunto elaborazione, ma questo perché appunto le condizioni di vita a livello di sopravvivenza, quindi il sovraffollamento, è talmente grave che vedono tutti questo come primo obiettivo, dopodiché le loro menti partoriranno quelli che sono gli obiettivi, tipo lo sviluppo delle misure alternative, l'attuazione di quello che dal 1946 se ne parla, pensate un po', della messa in prova, cioè dell'uscita soprattutto di chi sarà primo reato, della diminuzione della carcerazione preventiva, ancora al 43% delle presenze in carcere sono persone che non dovrebbero starci perché non sono state ancora condannate, e insomma tutte queste altre diciamo, rivendicazioni che sono lì sulla bocca dei detenuti e delle detenute, ma che non escono fuori finché non si affronta questo che è proprio vitale, la possibilità perlomeno di continuare a vivere, se si riduce il sovraffollamento. Ultimo pezzo di questo triste mosaico: che cosa fa il governo? Va in ferie. Il governo da oggi ha sciolto le camere, se vanno in ferie, che gli frega, ma non gli frega nel senso più bieco della parola. Hanno fatto, e poi pure su questo casomai ne parleremo la prossima volta perché è un discorso complesso, hanno fatto il discorso dell'allungamento dei processi, perché i grossi dirigenti di questo paese avevano bisogno di mandare in prescrizione i problemi che avevano, però contemporaneamente, perché la caratteristica di queste classi dirigente non è che sono o garantisti o forcaioli, no? Le due anime che caratterizzano ogni personaggio politico. Loro sono e l'uno e l'altro, garantisti per sé e per i propri amici, forcaioli per tutti gli altri, soprattutto per i poveri. Allora hanno fatto una norma in cui salvano i processi a loro stessi, e però invece peggiorano la possibilità per la povera gente. Il discorso di poter fare, questa è la norma, quello che si chiama, che è di qualche giorno fa, di cui i giornali hanno fatto dei commenti veramente beceri. Vabbè, che i giornalisti siano purtroppo, diciamo, non preparati né intelligenti lo sapevamo, però un po' di sforzo potrebbero fare, casomai se non sanno delle cose potrebbero chiederle a chi ne sa più di loro. Chi ha a che fare col carcere, per esempio, ne sa sicuramente più di loro. Allora, è stato chiamato dai giornali la legge, il decreto allunga processi, che in realtà appunto per Berlusconi e i suoi amici e anche per gli altri significava allungare i tempi del processo perché questi possano andare in prescrizione. Con quale meccanismo? Il meccanismo è quello che sul modello americano, vigente negli Stati Uniti d'America, l'avvocato della persona accusata può fare diciamo delle inchieste per conto suo, trovare degli testimoni, portarli davanti al giudice, interrogarli, cioè fare un'altra inchiesta a fianco di quella che fa il pubblico ministero, e tutto questo ovviamente allunga il processo. Per fare questa cosa però ci vuole la possibilità legislativa, e questa è stata data, e tanti soldi. Cioè poter avere un avvocato che ha anche una struttura investigativa in grado di produrre ciò che serve ad allungare un processo, ci vogliono, in Italia lo possono fare 10-15 persone, 20 che è al massimo, cioè i miliardari, perché una struttura investigativa significa una cifra spaventosa. Ecco, quindi hanno fatto processo a favore degli abbienti, a sfavore dei disabienti, perché questa cosa, se si trova, spesso si trova un disgraziato di fronte a un povero, di fronte a un ricco, davanti alla cosiddetta giustizia, normalmente ne usciva, questo da sempre, al 90% ne esce con le ossa rotte il povero. Con questa legge al 101% ne esce con le ossa rotte il povero, perché questa legge dà una mano al ricco contro il povero, visto che ce n'era bisogno, evidentemente sì. I wanna be your boyfriend, sweet little girl. I wanna be your boyfriend. Do you love me, babe? What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Boyfriend, hey little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Do you love me, babe? What do you say? Do you and the people. What can I say? Because I wanna be a boyfriend. Dunque, vogliamo darvi lettura di un comunicato che già conoscerete, comunque vale la pena continuare sempre e ovunque ad urlarlo, che è il comunicato della rete antirazzista di Bari, come avrete saputo, della rivolta appunto di fronte al centro di accoglienza dei richiedenti asilo, al CARA di Bari. E appunto il comunicato di questa rete antirazzista dice: eravamo con i migranti. Stamattina appunto, che era poi il 2 agosto, stamattina eravamo con i migranti che hanno manifestato la loro rabbia fuori dal CARA di Bari. Eravamo con loro già da quando sono arrivati a Manduria, scappando da una guerra a cui noi italiani diamo ancora il nostro apprezzato contributo. Eravamo con loro quando, una volta al CARA di Bari, hanno deciso di fare domanda d'asilo. Abbiamo sentito le loro lacrime, le loro grida di rabbia quando hanno ricevuto un diniego in quanto non riconosciuti degni di asilo politico. Proprio così. Perché per il Ministero dell'Interno non ha importanza se sei in fuga da una guerra. Se la Libia è sotto i bombardamenti della NATO o di Gheddafi o dei ribelli e se lì magari un tempo lavoravi da anni, avevi una vita. Non importa se in Libia ti danno la caccia sia gli uomini di Gheddafi sia i rivoltosi. Non importa insomma da dove vieni, non sei cittadino libico, quindi non hai diritto d'asilo. E mentre chi ha fatto domanda ormai da mesi attende risposta in una situazione di degrado terribile, senza doccia, con un solo pasto al giorno, isolato dalla città, senza possibilità di vita all'interno di una struttura militarizzata come il CARA di Bari, all'interno che tra l'altro appunto di una base dell'aeronautica, chi ha ricevuto il diniego attende disperato la condanna definitiva di un ritorno nell'inferno da cui è scappato. Dopo aver chiesto alla presidenza della regione, agli enti locali, esponenti politici, dopo aver manifestato in tanti sotto la prefettura di Bari, senza avere alcuna risposta se non un si vedrà, stamattina esplosa la rabbia. Non si può giocare con la vita delle persone, non si può giocare per equilibri politici con una vicenda umanitaria che quotidianamente assume i tratti della tragedia. Mentre stamattina a Bari i migranti manifestavano, il Mediterraneo ha fatto arrivare a Lampedusa un altro barcone con altre 25 morti a bordo. Non si può dire come ha fatto il sottosegretario Mantovano semplicemente. Dunque non si può dire come ha fatto il sottosegretario Mantovano semplicemente che che la violenza è intollerabile, tra virgolette. Appunto si chiedono come è possibile abbia potuto dire una stronzaggine del genere, che la violenza è intollerabile. Per noi è ancora meno tollerabile attraversare il Mediterraneo scappando da una guerra, vedendo morire i tuoi compagni di viaggio, essere rinchiuso in una tendopoli senza sapere cosa ne sarà della tua sorte, essere poi mandato in una base militare e lì venire a sapere che quello che ti aspetta tra stenti, insulti, sporcizia è un rapido ritorno al di là del Mediterraneo. Mantovano dovrebbe tacere e come lui tutti gli sciacalli della politica nazionale che da un lato scatenano guerre e dall'altro chiudono le porte a chi da quella guerra scappa. poi appunto c'erano degli appuntamenti che sono superato il 2 agosto e uno era oggi appunto alle 13, c'era un presidio di solidarietà presso la prefettura di Bari. I'm not made of brick, I'm not made of stone, but I had you fooled enough to take me on. If love was a war, it's you who has won. While I was confessing it, you held your tongue. Now the damage is done. A proposito della cara Italia, appunto, e di violenze intollerabili, sentite qua. Hassan e Abubakar, ragazzi somali di 20 e 21 anni, sono nati e cresciuti insieme a Mogadiscio durante la guerra civile. La loro amicizia è quasi un destino. Compagni di classe alle elementari, si sono ritrovati a Tripoli durante la fuga verso l'Europa. E infine nel CARA di Castelnuovo di Porto, un centro di prima accoglienza per rifugiati richiedenti asilo a 40 chilometri da Roma. Ecco, attraverso la voce di Hassan, perché Hassan e Abubakar esistono nella realtà, e attraverso appunto la voce di Hassan noi possiamo ascoltare un documentario, esiste un documentario di cui appunto vi diamo conoscenza, forse qualcheduno già lo conosce, e che si intitola proprio in questo modo, Cara Italia. È dell'anno scorso e appunto tramite la voce di Hassan il documentario racconta appunto tutte le attese frustranti del riconoscimento dello status di rifugiato nel vuoto del centro, lo smarrimento dopo averlo ottenuto senza sapere più dove dormire e dove mangiare, per cui poi tra l'altro questa violenza che loro subiscono dentro i lager, altro che la violenza intollerabile di cui si parla, che parlano i politici. E c'è poi anche questo, che anche dopo averlo ottenuto poi hai dei problemi grossi. Insomma, questo documentario è un impietoso sguardo dall'interno sull'accoglienza che il nostro paese riserva appunto a chi è cresciuto in questo mito dell'Europa democratica e civile. Loro sperano che venendo qui appunto trovano la democrazia, la civiltà. E questo appunto è un documentario intitolato appunto Cara Italia, e tra l'altro nel giugno 2010 sull'Internazionale uscì un articolo intitolato appunto Nel paese dei ciechi di Cristina Li Farà. Cristina Li Farà è una scrittrice che molte specialmente di voi conosceranno, è una scrittrice italo-somala che vive a Roma e dal 76 al 91 ha vissuto a Mogadiscio. E lei scrisse a proposito di questo documentario, dice: dopo il successo del documentario Come un uomo sulla terra, di cui era coautore il regista appunto di questo Cara Italia, Dagmai Himer, dice, presenta il film Cara Italia. Il titolo, dice, viene dall'acronimo di Centro Accoglienza per i Richiedenti Asilo, perché il Cara di Castelnuovo di Porto fa da sfondo alla vita di due somali appena ventenni che sono nati in Italia, che sono in Italia dal luglio del 2008. I protagonisti, Abubakar e Hassan, sono cresciuti in un paese in guerra e sono amici fin da bambini. Le loro giornate sono scandite da ritmi innaturali e imposti, nell'attesa estenuante che gli venga riconosciuto lo status di rifugiato. Le persone che ricevono accoglienza nel CARA possono dormire per un tempo stabilito e devono lasciare il centro la mattina presto. La sala della mensa è sorvegliata dai militari, il cibo è cucinato e distribuito da altre persone. Nel 2009 il regista Dagmawi è rimasto al Cara per 2 giorni insieme a un gruppo di somali che frequentavano la scuola Sinitas. Il regista gli ha detto quali erano gli argomenti di cui voleva che parlassero e poi li ha ripresi. Dagmawi tra l'altro non parla il somalo, ma le sue inquadrature seguono appunto le conversazioni in una maniera molto fluida. I volti sono in primo piano, mostrano la morbidezza tipica delle persone appena arrivate, una morbidezza che però svanisce con il passare del tempo. L'autore in seguito poi ha guardato questo materiale con la traduzione alla mano perché voleva appunto privilegiare le testimonianze sull'Italia. C'è un proverbio somalo che recita, così appunto ci racconta Cristina Lifara che è italo-somala, e questo proverbio somalo recita: quando si arriva in un paese di ciechi si chiude un occhio, bisogna cioè essere elastici. Tuttavia è difficile capire l'inospitalità, specialmente appunto per i somali. L'ospite va accolto, facilitato. All'inospitalità circostante si può reagire solo con lo stare insieme. E appunto in questo documentario vediamo che la musica e il canto possono scaldare, e appunto dice lei nell'articolo, scalda anche il fuoco acceso con l'alcol nei barattoli di latta per cucinare secondo il proprio gusto e mangiare poi nel piatto comune, perché appunto queste sono le immagini che possiamo vedere in questo film. Quindi se vi capita ve lo consigliamo, e si chiama proprio Cara Italia, che poi paradossalmente appunto questi centri si chiamano Cara, C-A-R-A ovviamente puntato, perché appunto significa centro di accoglienza richiedenti asilo. E quindi chi ha visto il documentario Come un uomo sulla terra, consiglieremmo vivamente di vedere anche quest'altro documentario. Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und Mekid, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an einem schönen blauen Sonntag. Liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki-Messer nennt. Und Schmuel Meier bleibt verschwunden wie so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mäcki-Messer, dem man nichts beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit einem Messer in der Brust. Und am Kai geht Mäcki-Messer, von allem nichts gewusst. Und das große Feuer in Soho, 7 Kinder und ein Greis in der Menge, Mäcki-Messer, den man nicht fragt und der nicht weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und ward geschändet. Mäcki, welches war dein Preis? Denn die einen Licht und man sieht die im Licht, die im Dunkeln sieht man nicht. Allora, adesso volevamo parlarvi un po' di un libro uscito da poco, un libro interessante perché mette, diciamo, come dire, al di là di tutto, diciamo, di tutte le tragedie che avvengono nel carcere, che vengono fatte avvenire tramite appunto la, diciamo, la volontà criminale di questo Stato, di questo governo. E però messo in luce una trasformazione che avviene all'interno del carcere italiano, ma un po' in generale, però anche se l'inchiesta, l'analisi è stata fatta sui carceri italiani, che sono poco, diciamo, visibili in queste trasformazioni. Il libro si chiama Il carcere manicomio, ha unito proprio queste due elementi che fisicamente sono ancora separati. Noi sappiamo, no, che il manicomio in generale è stato abolito in Italia, rimangono il manicomio criminale, l'OPG, di cui ne parliamo spesso, abbiamo fatto diverse trasmissioni su quello, e però fisicamente sono separati, cioè l'OPG, il manicomio criminale, l'ospedale psichiatrico giudiziario da una parte, il carcere dall'altra. C'è un'osmosi, un passaggio, abbiamo visto pure questa pregnanza del controllo psichiatrico che si espande anche ai soggetti incarcerati attraverso nelle infermerie di molti carceri, sempre più sta prendendo piede il reparto psichiatrico, quindi c'è questa sorta di totalizzazione psichiatrica. Il controllo psichiatrico è un processo comunque che va avanti fuori e dentro la società, ed è importante seguire questo processo perché l'individuazione del diverso, della diversa, dell'eretico, dell'eretica, della persona da isolare ed espellere, che viene fatta, diciamo, legalmente attraverso il codice penale, chi commette reati viene isolato, espulso, punito, eccetera, e poi attraverso il controllo psichiatrico, che è qualcosa di più sottile, di più pericoloso anche, no? Si cerca di individuare le persone che il cui comportamento non è gradevole per la gran parte delle cosiddette persone per bene, e quindi vengono isolati in altro modo. Lui afferma, attraverso un'inchiesta che ha fatto in questo libro, che appunto per una serie di motivi che poi spiega, all'interno del carcere il controllo psichiatrico fatto attraverso farmaci, quindi una sorta di ospedalizzazione, sta avvenendo. Quindi nel carcere stanno avvenendo processi di manicomializzazione, cioè sempre più il detenuto viene individuato, e la detenuta ovviamente, come persone da curare anche per la loro, la loro mente, in quanto si ritiene che abbiano che siano dei malati in quanto hanno trasgredito la legge. È un discorso molto vecchio che riprende però attraverso un'analisi fatta appunto sulle carceri attuali italiane. Questa è un'intervista fatta, ovviamente non abbiamo tempo di leggere il suo libro, e poi casomai leggeremo alcuni tratti successivamente. Questa è un'intervista, una sua presentazione fatta del suo libro stesso, appunto. E allora, intanto parte con le affermazioni, la prima parte del libro, che vede che la presenza di 67.174 persone a fronte di una capienza di 40.000 già rende l'Italia, il carcere italiano, il peggior carcere di ogni paese europeo, e questo è già il primo elemento, che però appunto va a entrare dentro i gangli di questa situazione. Allora, vediamo intanto questa prima una domanda, le fa l'intervistatrice. Lei scrive, intanto beh, il libro è appunto Il carcere manicomio, è il titolo, sottotitolo Violenza, pietà, affari e camicie di forza. Quindi il sottotitolo spiega bene, è edito Sensibile alle Foglie, quindi si può trovare nelle librerie. Lei scrive che a garantire un equilibrio al nostro sistema penitenziario è oggi la progressiva sostituzione dei servizi sociali delle carceri con un sistema di tipo caritativo filantropico. Anche noi spesso abbiamo parlato di questo atteggiamento caritatevole che un po' è generale, no? Fino a quando, ancora continua la domanda, una delega del governo di parte del penitenziario a welfare sociale e impresa privata riuscirà a garantire questo equilibrio già così precario? Risponde Salvatore Verde. Si tratta, a lui intanto è un giudice onorario del minorile, del carcere minorile di Napoli, quindi conosce bene sia la struttura minorile che anche, quindi entra nelle carceri, conosce, questa è un'inchiesta dettagliata che ha fatto, risponde a questa domanda. Si tratta di una delega dalla vita corta. I canali del volontariato possono essere attivati produttivamente nella gestione di una fase di emergenza acuta per un periodo limitato, per sostenere le devastazioni che una politica di riduzione delle risorse provoca nelle persone detenute, ma oggi siamo di fronte a tagli continui, definitivi, non certo temporanei, e né privato sociale né il volontariato possono supplire a ciò, a tutto ciò che con questi tagli viene meno. Nel carcere dove lavoravo 5 anni fa, parte della sua esperienza personale, più della metà dei detenuti aveva la possibilità di impegnare, questo 5 anni fa, la giornata con qualche attività formativa di tipo scolastico oppure culturale. Oggi questi spazi non ci sono più e il volontariato caritativo, che pure ha grandissima dignità, non riesce in alcun modo a supplire a questi tagli. La verità è che oggi i detenuti stanno chiusi in cella fino a 22 ore al giorno. In molti istituti anche le 4 ore d'aria previste dal regolamento non riescono ad essere garantite per carenza di personale o di spazi, diciamo noi. Quindi ne restano soltanto 2 ore al giorno di aria, il resto stanno chiusi in cella. In una cella come quella di Poggioreale, che è il carcere di Napoli, dove ci sono 12 persone, un solo bagno e brande che arrivano al soffitto. Nulla riesce a sollevare la condizione di chi si trova a stare chiuso in una stanza per 22 ore al giorno. I tagli netti a tutti i fondi impediscono oggi ai detenuti qualsiasi possibilità di riscatto. Un dato per tutti, in questa massa di sofferenze, di dolore in cui si trovano oggi le carceri, i fondi per l'assistenza psicologica sono stati tagliati ben del 70%, quindi praticamente azzerati. Nel libro, altra domanda, lei sostiene che negli istituti penitenziari si assiste ad una sommersione chimica, e questo è il punto Dolenz, secondo me il punto centrale, una sommersione chimica della sofferenza psicologica dei detenuti, arrivando a parlare di manicomializzazione delle carceri. Cosa significa questa espressione? Spiega Salvatore Verde. Nel mio lavoro parto da dichiarazioni pubbliche rese da dirigenti dell'amministrazione penitenziaria. Se il dirigente di un ufficio centrale racconta alla stampa che l'80 o il 90% dei detenuti, quindi la quasi totalità, di questo paese assume qualche forma di farmaco di natura psichiatrica, dai più blandi ai più importanti, mi sento legittimato a dire che il livello di gestione del penitenziario ha assunto appieno le sembianze di un manicomio, dove regnano l'anestetizzazione del disagio e la sommersione farmacologica della sofferenza. La medicina penitenziaria parla di 22.000 persone in questo momento sottoposte a protocolli psichiatrici. Se stessimo parlando di un territorio libero, un protocollo psichiatrico prevederebbe il coinvolgimento della comunità, delle relazioni, del mondo dell'affettività della persona, ma se invece si è chiusi in un carcere, il tutto si risolve alla somministrazione di semplici farmaci, di soli farmaci e basta. Stiamo parlando di 22.000 persone su 69.000. Scusate. Non sono piccole cifre. Oggi le carceri, sempre più di frequente, sono portate a rivolgersi alla psichiatria nel governo del disagio e della sofferenza che gestiscono. E questo processo non può che andare sotto il nome di manicomializzazione della pena. A quel punto gli fa un'altra domanda all'intervista. Oggi 1.500 nostri concittadini sono rinchiusi negli ospedali psichiatrici giudiziari, gli OPG, quelli di cui abbiamo parlato spesso, e 350 di loro potrebbero già uscirne. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, quelle del 2003-2004, che hanno aperto a molteplici possibilità trattamenti alternativi all'OPG, perché siamo ancora a questo punto? risponde Salvatore Verdi. Non credo che possiamo più permetterci di parlare di ospedali psichiatrici giudiziari. Bisogna fare un'operazione linguistica di verità. Se parliamo di luoghi con le finestre sbarrate, fatte di celle e sezioni chiuse da cancelli e da blindati, che hanno per recinto un muro con un camminamento percorso da uomini armati che ne impediscono l'uscita, parliamo di una prigione. Entrare in un luogo del genere, che ospita persone con una sofferenza mentale, vuol dire entrare in un manicomio criminale. Difatti, giustamente, non li chiamiamo manicomi criminali, perché addolcire la parola quando non si cambia la realtà è da imbecilli, nella migliore delle ipotesi, oppure da criminali veri, come sono gli attuali governanti, attuali anche precedenti. Eppure, continua Salvatore Verdi, quindi sono manicomi criminali, perché hanno appunto le sbarre, le guardie armate. Quindi. Eppure, la maggior parte degli operatori che lavorano in questi posti definiscono le persone chiuse come dei pazienti, non dei detenuti. Questa è la falsità. Facendo un'operazione di nascondimento della verità che non possiamo più permetterci. È bene parlare di manicomi criminali se vogliamo almeno restituire verità agli uomini e alle donne chiuse in quelle strutture. Come lei ricordava, si riferisce a oggi, 1500 persone sono chiuse negli OPG, ma probabilmente sono molte di più le persone con sofferenze psichiche rinchiuse nelle carceri normali. Da qualche tempo non tutti coloro che hanno una sofferenza mentale arrivano fortunatamente nel circuito degli OPG. Dico questo per ribadire che il rapporto tra sofferenza mentale e carcere non si esaurisce oggi nella questione OPG. E allora domanda, dice, ma allora perché gli OPG? L'intervista dice, perché gli OPG continuano a esistere? E risponde Verde. Recentemente ho letto una dichiarazione di Beppe Dell'Acqua, responsabile del distretto di salute mentale di Trieste, che diceva con orgoglio che negli ultimi 3 anni nel territorio del Dipartimento di Salute Mentale, appunto di Trieste, nemmeno una persona è finita nei 6 manicomi criminali italiani. Questo significa che in quel territorio ci sono ottimi servizi di salute mentale e delle buone reti di aiuto e di sostegno delle persone che sono in difficoltà. È proprio questo processo sociale e istituzionale che funziona e che si deve far funzionare, non certo ridurre con tagli e chiusure di servizi. Piuttosto che aspettare che ci siano le condizioni politiche per una trasformazione del codice penale in questo paese, che oggi non ci sono, il cambiamento del codice penale che è ancora quello del 31, quello fatto in piena epoca fascista, finora non è stato modificato. Figuratevi se lo è adesso, in cui ci stanno il 99% di quelli che siedono al Parlamento sono nostalgici, esplicitamente nostalgici del periodo fascista, quindi è chiaro che loro non lo cambieranno. Quindi non ci sono oggi, e quindi dovremo lavorare di fronte al rafforzamento di questi servizi esterni al carcere, una rete, delle reti di sostegno e di aiuto. Allora, altra ultima domanda. A fronte di un sovraffollamento che rende l'Italia un unicum rispetto agli altri paesi d'Europa, anche per il numero delle morti e dei tentati suicidi, quale spazio resta per le misure alternative? Risponde Salvatore Verde. Con una criminalizzazione sociale così potente contenuta nei sistemi normativi che colpiscono i consumatori di sostanze e i migranti, non c'è alcuna possibilità di risolvere in fuoriuscita il problema del sovraffollamento delle carceri. Mi spiego. Se una persona arriva nel penitenziario è perché ha già subito pesanti processi di marginalizzazione ed espulsione sociale. Ed è su questo livello che credo dovremmo lavorare. Le misure alternative hanno un presupposto fondamentale. Una persona che le chiede deve avere la possibilità di rappresentare al magistrato un percorso di vita alternativa fondato su risorse, certe quali il lavoro, di abitazione e di famiglia. Se non ha queste condizioni, non ha accesso alle misure alternative. Sappiamo tutti, no? Per avere misure alternative bisogna avere un lavoro, e vado a trovare anche un domicilio, quindi cose che appunto, dice, siccome è precedente, la persona prima di andare in carcere è già stata marginalizzata, quindi non potrà avere queste cose. Io penso, dice Salvatore Verde, che il problema con questi criteri non si possa risolvere. Se vogliamo veramente risolvere il dramma del sovraffollamento carcerario, dobbiamo agire a monte di tutto ciò, evitando che una massa enorme di persone arrivi nel contenitore penitenziario. Non possiamo buttarli nel contenitore e poi studiare soluzioni giuridiche che ci consentano di farli uscire. Così non funziona. In questo paese le misure alternative ci sono esistono dalla riforma del 75 e accentuate da quella dell'86, diremo noi, no? La cosiddetta legge Gozzini. Ma al di là delle troppe limitazioni che sono state introdotte da allora adesso, aggiungiamo noi, è anche vero che si tratta di un meccanismo estremamente sensibile agli umori della politica e dell'opinione pubblica, tanto da essere bloccato e frenato ogni volta che c'è un'emergenza, una cosiddetta emergenza criminalità. E allora il problema vero va risolto prima, la situazione delle carceri diventerà ancora, oppure la situazione delle carceri diventerà ancora più drammatica di quanto non sia oggi. Cioè lui sostanzialmente con questo libro, oltre a denunciare la manicomializzazione, cioè il controllo attuato attraverso medicine psichiatriche della sofferenza dei detenuti, non quindi di migliorare la condizione carceraria oppure l'uscita, ma gli si danno medicine così li si addormentano, li si rimbambiscono e così si risolve secondo loro il problema delle carceri. Questa è la denuncia che fa. La soluzione che individua, dice, siccome non ci sono le condizioni per cambiare il codice penale, per modificare e abrogare quelle leggi assurde, criminali, come la Bossi-Fini, la Fini-Giovannardi, quelle che appunto criminalizzano l'immigrazione, la tossicodipendenza e tutto il resto, o anche la Cirielli, insomma tutte queste leggi abiette, barbare, criminali, fatte appunto da questo sistema indegno, e non ci sono le condizioni politiche, perché sono tutti d'accordo a fanno a gara chi è più forcaiolo tra maggioranza e opposizione, quindi non ci sono queste possibilità. Allora dice, conviene lavorare creando all'interno della realtà delle reti di sostegno e di aiuto per quelle persone che vengono via via emarginate, che so, i migranti, i tossicodipendenti, anche i poveri, tutte le persone che hanno come prospettiva, vicina o meno vicina, l'ingresso in carcere, perché dalla marginalizzazione al carcere il passo è breve, cioè la marginalizzazione è il primo, è l'anticamera del carcere, no? Tu sei marginalizzato, pensiamo alla situazione, che ne so, i campi rom, oppure appunto i barboni, oppure gli immigrati, oppure appunto i tossicodipendenti, questi stanno lì per entrare, prima o poi entreranno, non c'è possibilità di alternativa, il loro futuro è il carcere. Allora dice, bisogna lavorare prima, evitando ovviamente all'interno di una grossa battaglia sociale, costruendo tutto quello che manca in Italia, che è questa rete di sostegno e di aiuto, quindi per evitare la marginalizzazione e l'emarginazione delle persone, costruire queste reti di sostegno in modo che, impedendo l'emarginazione, possono anche impedire i grossi ingressi in carcere. Successivamente verrà poi il cambiamento delle leggi, bisogna lì operare, bisognerebbe avere un rapporto di forza che oggi non c'è, perché bisogna o piegare la volontà governativa e anche dell'opposizione, perché abbiamo detto sono d'accordo su queste vigne forcaiole, bisognerebbe avere una forza tale da riempire le strade per 3 mesi di seguito, ovviamente creare una situazione di ingovernabilità e a quel punto piegare con la forza, non c'è altro mezzo, con la violenza, il governo ad accettare quelle cose che non vuole accettare, ossia un cambiamento delle leggi. Visto che questo nell'immediato non si può fare, operare per la costruzione di reti di sostegno delle persone che via via vengono marginalizzate e quindi diventano preda del carcere. E dunque, a proposito di questo, di quanto è stato detto fino adesso, di questo libro, tra l'altro non possiamo leggervela perché il tempo stringe, casomai all'inizio delle prossime trasmissioni ci sta una lettera appunto su Ristretti, che parla, dove parla de Miss Vidal, che appunto parla di come ha avuto tanti problemi fin da piccolo, e appunto che dice che fuori cercava lo sballo in tutte le maniere, dice, e in carcere passo le giornate aspettando la distribuzione degli psicofarmaci, quindi appunto risolvono i suoi problemi psichiatrizzandolo, insomma, come abbiamo sentito, come avviene con tutti i detenuti. E quindi poi andremo a leggervi questa lettera in seguito, perché è piuttosto lunga. E invece vorremmo terminare con un articolo che ognuno valuterà in base alla propria opinione. E secondo un ricercatore specializzato in informatica, sembra che si possa usare un virus, e indovinate per che cosa? Per aprire le porte delle celle nei penitenziari di tutto il mondo, o almeno insomma in quelli che usano sistemi elettronici, insomma, per controllare le porte. Allora, questo come sarebbe possibile? Sarebbe possibile perché si usano gli stessi PLC, adesso vado a dirvi, presenti nelle centrali nucleari. Allora, i PLC, dunque, che sarebbe? Io ve lo dico in italiano perché il mio inglese, insomma, è della serie Down by Law. È controllo logico programmabile. Che cos'è? Il PLC è un computer industriale. All'inizio era specializzato nella gestione di processi industriali ed esegue un programma ed elabora dei segnali sia digitali che analogici provenienti da dei sensori e diretti appunto agli attuatori presenti in un impianto industriale. E gli attuatori sarebbero, in parole banali, dei dispositivi che convertono appunto l'energia da una forma a un'altra. Ora poi nel tempo, prima erano solo era un computer industriale, poi nel tempo con la miniaturizzazione dell'elettronica, la diminuzione dei costi, è entrato anche nell'uso domestico. Quindi l'installazione di un PLC noi lo troviamo anche, che so, nel quadro elettrico di un'abitazione, vedi, salvavita, oppure permette la gestione automatica di molti sistemi installati nella casa, l'impianto di riscaldamento, l'antifurto. Insomma, il PLC è un oggetto hardware componibile e la programmazione sfrutta gli strumenti e i concetti che già siamo abituati a utilizzare nel PC dell'ufficio, negli impianti elettrici. Insomma, un certo John Strauss ha scoperto, che tra l'altro ha partecipato in prima persona allo sviluppo dei sistemi di sicurezza, ha scoperto appunto questo virus. Incuriosito da questo virus di nome Stuxnet, Strauss ha infatti rilevato che le prigioni, almeno quelle degli Stati Uniti, si affidano appunto a questi PLC Siemens presenti nelle centrali nucleari iraniane. Questi dispositivi sono stati il bersaglio del virus, come si scoprì tra l'altro lo scorso settembre, Stuxnet, il virus che colpisce appunto le centrali atomiche. Basterebbe quindi, secondo Strauss, modificare il codice esistente per aprire tutte le porte di un penitenziario di massima sicurezza e probabilmente sarebbe relativamente, insomma, facile attaccare più carceri nello stesso momento. Dice, le potenziali conseguenze, dice l'articolo, sarebbero a dir poco drammatiche e probabilmente si potrebbe parlare di pericolo diretto per la sicurezza nazionale. Ora Strauss spiegherà questi dettagli di questa scoperta ad una conferenza, tra l'altro, di Las Vegas, che si terrà la prossima settimana. La maggior parte delle persone non sa com'è progettata, questo testuale dice, com'è progettata la porta di una prigione, e per questo nessuno se n'è mai preoccupato. In quanti sanno che sono costruite con gli stessi PLC delle centrifughe? Le centrifughe ovviamente quelle nucleari, Strauss spiega di aver lavorato in collaborazione con la figlia, e bravi, e di aver trovato il modo di aprire le porte in meno di 3 ore. E dai, Per un malintenzionato basterebbe un investimento di poche centinaia di dollari per mettersi al lavoro. Il problema sarebbe dovuto da una parte a questi PLC stessi, la cui progettazione risale a molti anni fa e non integra misure di sicurezza, e dall'altra anche ai sistemi Window che li controllano, nei quali appunto è possibile penetrare con tecniche più o meno complesse. Si potrebbe pensare che la necessità di un accesso fisico ai computer sia una buona garanzia, ma insomma l'esperienza iraniana ha dimostrato il contrario. Strauss spiega infatti di aver visto delle guardie di sicurezza accedere al proprio account Gmail con i computer che controllano le prigioni. Una porta sufficiente, insomma, per qualsiasi attacco. Sarebbe possibile attivare l'apertura di emergenza di tutte le porte facendo credere al sistema che ci sia per esempio un incendio in corso, per esempio, per ottenere appunto l'effetto desiderato. Oppure si potrebbe tentare di aprire una porta specifica e con un po' di lavoro in più disattivare anche il sistema di allarme per appunto un'evasione perfetta. Quindi a questo punto ognuno può pensare quello che vuole di questo simpatico virus Stuxnet. E allora con questa bella notizia, più che altro una bella speranza, anche se la gran parte delle celle di questo paese, Italia, sono chiuse con la chiave grossa, col chiavistello come nell'Ottocento. E vabbè, però insomma, vedremo se si trova un virus anche per quelle meccaniche. Dunque noi siamo arrivati alle 16, quindi mandiamo in replica la trasmissione di Contaminazioni Afro, che in questo oggi non ci sarà. L'appuntamento che ci diamo non è per mercoledì prossimo, come abbiamo detto, perché questi prossimi 15 giorni la radio chiude per le manutenzioni, quindi 2 settimane a cavallo di Ferragosto. Ci sentiamo quindi mercoledì, non ricordo che giorno è, vabbè, insomma, poi lo vedremo. Nel frattempo appunto vi auguriamo soprattutto buona libertà, perché altro non si può augurare a coloro che sono privati della propria libertà. E un saluto a tutte e a tutti, vi abbracciamo per queste 2 settimane, restiamo nella speranza che questo Stuxnet arrivi anche da voi. Ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao. Di qui sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò, non mi farò peccare. Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare, e ai sogni c'è un limite, te lo dai il giudice, il tempo che passa, il secondino è grassa. Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò non mi farò peccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni in tempo.